Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. La storia non sempre rende onore agli eroi, soprattutto quando loro non fanno niente per farsi notare e non pretendono a tutti i costi una riconoscenza per il gesto che hanno compiuto. Oggi a Destini Incrociati parliamo di uomini e motori, di coraggio e vittorie e di una natura che vede eternamente scontrarsi l'acqua e il fuoco. L'emozionante avventura dell'automobilismo sportivo parte da molto lontano. Anche se l'invenzione del motore a scoppio si deve ai tedeschi, è in Francia che avviene la prima gara. Nel 1887 il quotidiano francese Le Vélocipède organizza una corsa da Parigi a Versailles. Ma l'iniziativa fallisce miseramente perché si iscrive una sola vettura. Le Petit Journal, con astuzia, mette in palio dei soldi e offre 5.000 franchi al pilota capace di arrivare primo da Parigi a Rouen per un totale di 130 chilometri. Il più fortunato e bravo dei 21 partecipanti è il Conte de Dion, che mantiene una media di 18,5 km all'ora e non si fa mancare una breve sosta per il pranzo. La gente intorno è totalmente coinvolta e non ci vuole molto a rendersi conto del potenziale di questo sport. E così, già nel 1906, l'Automobile Club de France stila un regolamento e organizza quello che è considerato il primo Gran Premio della storia. Qualche anno dopo, a Modena, Enzo Ferrari incomincia a dare vita al suo sogno. Io mi sono permesso di giudicare l'automobile come una conquista di libertà per l'uomo. Oggi non si fa praticamente più, perché è diventato molto pericoloso, ma all'inizio le corse si praticavano su strada. Per esempio la Targa Florio in Sicilia, o la Mille Miglia, che fino al 1957 significa Brescia-Roma e ritorno. Esistono però, e fanno gioire migliaia di cultori, le corse su percorsi non asfaltati, strade sterrate, sentieri di campagna, perfino piste tracciate nel deserto. Volutamente vengono inseriti nel percorso passaggi accidentati e dossi per rendere spettacolari i salti delle vetture. È quello che succede nel campionato mondiale di rally e nella Parigi-Dakar. Ma è intorno agli appuntamenti dei grandi circuiti che la domenica si ritrovano gli appassionati. Un'accelerata e il pedale schiacciato per tutto il rettilineo. Poi una frenata perché arriva la curva. Poi di nuovo un cambio di marcia. Queste prove di concentrazione mostrano tutte le qualità di un pilota. Autodromo di Monza. Costruito nel 1922, più di 6 km di percorso, allunghi i rettilinei intervallati da chicane e poche curve veloci. Vede il suo momento di maggiore spessore tecnico nella parabolica, interminabile tornante destrorso che, se affrontato sulla giusta traiettoria, immette sul rettilineo dei box a velocità già elevatissime. Monte Carlo. Nelle strade del Principato, per un totale di 3 km e 300, si corre dal 1929. 19 le curve, di cui 11 a destra e 8 a sinistra. Il circuito di Monte Carlo, che premia la pole perché è difficile sorpassare, è il più lento di tutto il mondiale, anche se comprende sia la curva più lenta di tutto il campionato, un tornantino in discesa che si percorre in prima a 45 km all'ora, che quella più veloce, il tunnel, dove si toccano i 280. Circuito di Nürburgring, Germania. Inaugurato nel 1927, intorno alla torre del castello da cui prende il nome, si sviluppa come un gigantesco otto, per una lunghezza totale di 28.265 metri, con un tracciato diviso in anello nord e anello sud, e un lungo rettilineo in comune che porta al traguardo. È qui che nel 1976 un giovane pilota di provincia diventa un eroe. Il suo nome è Arturo Merzario. Arturo Merzario. Grazie, un saluto a tutti. I nomi di molte persone sono frutto di trascrizioni sbagliate da parte degli impiegati delle anagrafi. È stato così anche per Arturio Francesco Merzario, che a Civenna, provincia di Como, l'11 marzo del 1943, perde la rima col cognome e diventa più banalmente Arturo. Sono un comasco doc, poi per esigenze di lavoro ho fatto 5 anni in Abarth a Torino, 5 anni a Modena per la Ferrari e poi a Milano, ma... Non che serva un nome originale a renderlo speciale ed eccentrico. Cappello da cowboy sempre in testa e forte accento lombardo, genuino e istintivo, taglia da fantino, Merzario tiene i capelli lunghi e corre per passione. Vincere gli interessa, certo, ma non è la sua priorità, perché davanti a tutto lui mette la vita, non intesa solo come sopravvivenza, ma come fortuna di cui approfittare giorno dopo giorno. Il suo debutto in pista avviene a Monza. È il 1962 e Merzario, che guida una Giulietta Spider, arriva ottavo. Poco dopo si cimenta in un'altra prova. Allora, posso affermare che la seconda gara in assoluto della mia vita in automobile fu, non si chiamava rally, si chiamava Giro dell'Ario. In auto, perché c'era anche la corsa di Giro dell'Ario motociclistica negli anni 50 e nel 63 ripristinarono questo Giro dell'Ario con le automobili organizzato dalla Cicomo, allora presidente non mi ricordo più chi, e Mario Angiolini, patron della Jolly Club. I suoi genitori non sono d'accordo, non vogliono assolutamente che il loro figlio, da sempre un po' pazzo, si cimenti con le gare automobilistiche. Lui finché riesce lo tiene nascosto, ma il paesino è piccolo, la gente mormora e i tifosi cominciano a seguire le sue imprese su e giù per le colline. Mamma e papà, dopo averci provato in tutti i modi, sono costretti ad arrendersi. Il suo sogno, fin da piccolo, è quello di dare vita a un suo team e chiamarlo Arturia. Nel frattempo, tra amici, ragazze e bevute in compagnia, si diverte come un matto sulle sue Abarth. La Abarth è una casa automobilistica fondata nel 1949 dall'ingegnere Carl Abarth, a cui è venuta un'idea geniale. Riutilizzare alcune vetture prodotte in grande scala, prevalentemente delle Fiat, e rimaste in fabbrica dopo il fallimento della Cisitalia, ed elaborarle per farle correre. Le marmitte marchiate con il logo di uno scorpione, il segno zodiacale del fondatore, sono in grado di rendere aggressiva perfino una Topolino o una Fiat 600. Per un ragazzo folle e divertente come Arturo Merzario, queste Abarth non possono che essere una vera passione. Allora era il sogno di ogni ragazzo avere un Abarth 850 derivata dalla 600, perché adesso tutti parlano di grandi marche, ma allora avere un'automobile era già un lusso. Avere poi un'auto elaborata, non si deve dire truccata, elaborata da Carlo Abarth era veramente il fiore all'occhiello. Merzario non vuole limitarsi a una disciplina. Sa che gli piacciono i motori e gli piace la velocità e spazia in tutti i settori dell'automobilismo. È ancora giovanissimo quando comincia a vincere in pista e nei rally, anche da privato, con vetture turismo Alfa Romeo. Ma è proprio grazie a Carlo Abarth, che lo vuole nella sua squadra, se la sua carriera decolla. Il comasco che ama ridere di se stesso diventa uno dei migliori specialisti per quanto riguarda le vetture sport prototipo. Nel 1969, sedicenne, quindi legalmente troppo piccolo per guidare normali automobili, arriva secondo nell'Europeo della montagna e mostra tutta la sua grinta nel difficile circuito del Mugello. C'è sempre almeno un uomo di Maranello che Enzo Ferrari manda in giro per fargli scoprire i talenti, e Merzario non è certo un tipo da lasciarsi scappare. L'anno dopo, il cowboy padano è già dentro la scuderia del cavallino. Comunque, la Ferrari, che vinca o perde, è sempre il metro di paragone nell'automobilismo sportivo. Questo non c'è ombra di dubbio e credo che lo sarà ancora per altri 100 anni. Al debutto, Arturo è terzo con Andretti e X nella 24 ore di Daytona. Poi si piazza altre volte, ma non viene usato con costanza. Eppure è un grande combattente che non si tira mai indietro. I primi trionfi sono datati 1972, quando esordisce a Brands Hatch in Inghilterra il 16 luglio con la Ferrari F1. Non è un momento positivo per Maranello, anzi, gli inglesi a dir poco stanno dominando. X disputa una gara eccezionale e rimane in testa per 48 giri, tradito poi dal differenziale. Vince Fittipaldi con la Lotus. Merzario parte ottavo e finisce sesto. Una gara sfolgorante. Riceve il premio come pilota più grintoso. Ma è nel Mondiale Marche che Merzario si distingue davvero, aggiudicandosi con Brian Redman la 1000 km di Spa e un'epica Targa Florio in coppia con Munari, dopo un duello indimenticabile con l'Alfa 33 di Nanni Galli ed Helmut Marko. È il suo destino di eterno outsider, quello di macinare vittorie nell'endurance e non salire mai su un podio per una scuderia. Non è solo sfortuna, è che Merzario preferisce l'avventura al successo, quel successo che nell'automobilismo premia solo i fuoriclasse. Ma è il 1973, la Ferrari non vince da ormai 11 anni il mondiale e una situazione come questa non si è mai verificata prima. Per il patron Enzo è intollerabile, bisogna rompere questa maledizione. L'ingegnere Forghieri è pronto per mettere a punto una nuova vettura e il direttore sportivo appena arrivato, Luca Cordero di Montezemolo, ha già le idee chiare. Per il 1974 la Ferrari prevede di partecipare al campionato Formula 1 con due vetture ed eventualmente a qualche rara gara prototipo. Ma mi sembra perlomeno inopportuno, data la situazione generale attuale nel campo automobilistico, fare dei programmi a lunga scadenza. Come sempre il pilota conta tantissimo e in questo momento bisogna trovarne uno all'altezza del brasiliano Fittipaldi, il più forte del mondo. Per questa ambiziosa impresa Merzario non si sta certo dimostrando l'uomo giusto. È forte con i prototipi, ma con le monoposto il suo entusiasmo non basta. Arturo Merzario alla Ferrari non dà i risultati sperati. Certo, è impavido e battagliero, ma la sua umanità a volte lo tradisce. Non è un robot che si porta a casa una vittoria dietro l'altra. E in più, non si fa problemi a dire quello che pensa, neanche al grande Enzo Ferrari, temuto da tutti e che proprio per questo di solito non viene mai contestato. Un giorno come tanti, Arturo è in scuderia e gira intorno a una vettura studiandola nei minimi particolari. Arriva il patron Enzo e gli chiede di provarla e lui naturalmente obbedisce. Quando rientra dal giro e gli viene chiesto di esprimere un giudizio, ci pensa un attimo e risponde: vuole la verità o una frase di comodo? Ferrari, sempre terra terra nella sua grandezza, vuole la verità. E Merzario la tira fuori impietoso. Se ci aggiunge un manettino, diventa un autobus. Forse incolpare le vetture è un modo per difendersi dagli attacchi, perché non vince. Ma fatto sta che dopo 5 minuti tutti gli ingegneri sono in riunione con Ferrari. Gli aneddoti sulla schiettezza di Merzario, genuino uomo di provincia che non fa troppi giri di parole, sono numerosi. Ma questo non gli impedisce certo di pensare alla casa di Maranello come a un mito impareggiabile. La Ferrari è la Ferrari per tutto il mondo, la Ferrari, io credo che la Ferrari sia come la Coca-Cola, in tutto il mondo, in qualsiasi angolo della terra si sa che cos'è la Coca-Cola, si sa chi è la Ferrari, chi è Enzo Ferrari. Poi le vicissitudini degli anni, al di là dei risultati belli, brutti, vincenti o perdenti, la Ferrari è la Ferrari. Ferrari, deciso a scongiurare la maledizione dopo 11 anni che la rossa non riesce a vincere, decide che non è più il tempo per Merzario. Lui capisce e se ne va spontaneamente. Si tiene il casco con il cavallino rampante, ma come piccola vendetta gli disegna le briglie e gli abbassa la coda. Come a ridicolizzare un mito, un piccolo scherzo, ma che nasconde una grande amarezza. Mozzicone di sigaretta sempre sulle labbra e sorriso beffardo stampato in volto. Il cowboy padano ama troppo correre per fermarsi di fronte a una sostituzione per quanto dolorosa. La Ferrari gli offre un ingaggio per il 1974, limitato alle sole corse dei prototipi ed eventualmente a qualche gara in Formula 1. Ma lui rifiuta, è troppo orgoglioso per accettare. La sua doppia vita sulle piste procede. Passa ad Alfa Romeo e continua a prendersi le sue soddisfazioni al di fuori del campionato di Formula 1. Alla guida di un Alfa Romeo 33 si impone di nuovo nel campionato mondiale Marche, vincendo le gare di Digione, Monza, Enna e Nürburgring, e vince ancora la Targa Florio in coppia con Nino Vaccarella. In Formula 1, invece, dopo molte delusioni, decide di abbandonare il team Williams a causa di gravi divergenze con il manager della squadra. Intanto però Enzo Ferrari ha bisogno di un nuovo pilota per affrontare a testa alta il campionato 1974. Lo trova in un giovane austriaco semisconosciuto che gli suggerisce Clay Regazzoni. Il suo nome è Niki Lauda. Niki Lauda. L'avevo conosciuto alla BRM in quel passaggio, in quell'anno che ho lasciato la Ferrari nel 73, sono andato in Inghilterra e lì ho conosciuto Niki, che poi l'ho consigliato a Ferrari quando io l'anno dopo sono ritornato. Merzario e Lauda, diversi come il fuoco e l'acqua, uno genuino e istintivo, l'altro razionale e impenetrabile, si passano il testimone, ma non sanno ancora che il loro destino sarà molto più incrociato di così. Nel frattempo Merzario è costretto a guardare da lontano l'esordio del futuro campione che già non sopporta. A Lauda non sembra vero di coronare già un sogno. È giovane e in Ferrari può esprimere tutto il suo potenziale. È scatenato, ma sa tenere sotto controllo l'irruenza. Così conquista 9 pole position e 2 vittorie in Spagna e Olanda. Ma il titolo mondiale per adesso è rimandato. Enzo, come al solito, difende i suoi ragazzi dagli attacchi della stampa. Io ritengo che per giudicare un pilota dobbiamo pensare che cos'è un uomo. Come possiamo condannare un giovane di 25 anni perché ha osato? Lauda per me è già completo, perché le esperienze del 1974 le capitalizzerà nel 75. Non commetteremo gli errori di quest'anno, ne faremo dei nuovi, perché soltanto quelli che lavorano sbagliano. Quelli che scrivono il lunedì non sbagliano mai. Il campionato del 1975 non comincia per il verso giusto. Nelle prime 4 gare non c'è neanche un vincitore del cavallino. Mentre Enzo Ferrari, lungimirante e paziente, crede di avere comunque scelto l'uomo giusto, i tifosi cominciano a pensare che il talento di Lauda sia stato solo un abbaglio. Finché l'11 maggio del 1975 il circo della Formula 1 approda nel circuito più tosto e affascinante, Monte Carlo. Come sapete, Lauda è in prima posizione, ha compiuto in prova il giro più veloce in un primo 26 secondi e 40 centesimi. Sono 20 anni che la Ferrari non vince su questa pista stretta. Dove sorpassare è praticamente impossibile, c'è solo una cosa da fare per dominare: scattare in testa. Lauda ce la fa e giro dopo giro tira dritto al traguardo. La vittoria è stupenda, commuove, eccita il pubblico. Luca Cordero di Montezemolo perde la testa, entra in pista e rischia di farsi travolgere per festeggiare. Adesso l'austriaco sembra implacabile, è idolatrato come un semidio, vince altre 3 gare e vola in testa al campionato. Fittipaldi e la McLaren sono in crisi, temono che con Monza il cavallino rampante avrà la sua consacrazione. 500 km e 560 metri per il Gran Premio d'Italia che tutti si attengono venga a suggellare la superiorità di Ferrari in Formula 1. Una folla enorme, vibrante e attesa fin dalle prime ore del mattino aspetta l'inizio della gara con il timore che tutto vada a monte per il forte temporale antimeridiano. Né la perfezione tecnica né il sangue freddo possono fare qualcosa contro la natura. Si può tenere sotto controllo qualsiasi cosa, sembra suggerire il destino, ma non l'acqua e il fuoco. Il Gran Premio d'Italia, con le sue curve insidiose seminate sul rettilineo per costringere a rallentare, si annuncia durissimo, anche se Lauda ha già conquistato la pole position. Adrenalina a mille, sguardo d'intesa da sotto il casco tra Lauda e Regazzoni, ma non c'è spazio per un sorriso. Il mondiale sembra già tinto di rosso quando Lauda, non si capisce perché, incomincia a rallentare. Il brasiliano Fittipaldi si avvicina. Dai box impotenti non riescono a stare fermi finché avviene il sorpasso. Fittipaldi passa Lauda. Se riuscisse a superare anche Regazzoni, si potrebbe dire addio al sogno del podio che dopo 11 anni finalmente sembrava così vicino. Regazzoni però è fuori tiro. Anzi, appena avuto sentore dell'inseguimento di Fittipaldi, schiaccia un momentino e riporta il suo vantaggio sui 15-16 secondi. Regazzoni è primo, secondo Fittipaldi, e Lauda arriva terzo. Ha calcolato tutto, il ragioniere al volante. Ha fatto il minimo, niente di più. Ma il mondiale è suo ed è targato Ferrari. Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. A Destini Incrociati è il 1975 e al Gran Premio d'Italia, circuito di Monza, l'austriaco Niki Lauda è appena diventato campione del mondo, facendo vincere il mondiale dopo ben 11 anni alla scuderia Ferrari. Lo chiamano computer perché freddo e calcolatore, poco incline alla spettacolarità. Per questo motivo Lauda o lo odi o lo ami. Lo ami perché vince, lo odi perché ostenta una sicurezza che non sembra neanche umana. Al suo opposto c'è Arturo Merzario, folle, impreciso, tanto generoso quanto inaffidabile, che proprio da Lauda è stato sostituito. L'antipatia è reciproca, ma il destino ha deciso di legare i due a doppio filo per tutta la vita. 1 agosto 1976, circuito di Nürburgring, Germania. 174 curve, 300 metri di dislivello, un'infinità di salti, gobbe, avvallamenti disseminati lungo il percorso. La vegetazione è fitta, ma tagliata da una striscia di asfalto. Su un lato della pista il terreno diventa lentamente pianura, sull'altro sale verso la collina e si perde nel bosco. C'è anche un castello da qualche parte, ma nessuno lo vede. Sono tutti tecnici e spettatori catturati dalle acrobazie delle vetture. Nel corso del terzo giro, più o meno al chilometro 11, nel tratto compreso tra la curva Mühle e il tornante Bergwerk, la monoposto numero 1 Ferrari, rossa, con una banda bianca, esce veloce dalla curva. Una frazione di secondo impercettibile. Il pilota piega a sinistra, poi sbanda a destra, controsterza, ma non riesce a tenerla. L'auto fuori controllo taglia in diagonale la pista e scivola verso la rete di cinta. Subito dopo c'è il fianco della collina. Lo schianto la fa volare in aria e poi ricadere sui rottami finché si incendia e continua a bruciare mentre gira su se stessa. L'incidente del Nürburgring probabilmente è stato causato da un suo errore. Perché sbaglia un pilota come Lauda? Succede. In Formula 1 anche la minima mancanza di concentrazione e le pressioni dell'ambiente si pagano duramente. Proprio alla vigilia di quel Gran Premio di Germania, da Maranello erano venute severe critiche a Lauda. Dopo il matrimonio con Marlene, Niki non si impegna più come una volta. Errore o sfortuna, poco importa. Dentro l'abitacolo, mentre è avvolto dalle fiamme, in quei pochi istanti a Niki Lauda passa tutta la vita davanti. Quando si pensa a una capitale aristocratica ed elegante, custode gelosa delle sue tradizioni e del suo passato glorioso, la mente vola veloce a Vienna. Nella stessa città appoggiata sulle rive del Danubio, in cui lo scrittore Arthur Schnitzler vagabondava di notte e dove Sigmund Freud frugava nei meandri della psiche umana, nasce nel 1949 il piccolo Andreas Nikolaus. La sua famiglia di ricchi industriali è come un valzer, allegra in apparenza, ma austera nello stesso tempo. Sono sempre stato un ragazzino contenuto, pacifico e amante del silenzio. Non che fossi sempre ubbidiente, anzi, ero molto sicuro di me e di quello che volevo anche da piccolo, ma esprimevo le mie idee senza urlare. Casa Lauda comincia presto una lunga guerra fredda. Papà ha già stabilito che Niki si dedicherà a mandare avanti gli affari di famiglia, ma lui non ne vuole proprio sapere. Il suo idolo è l'automobilista austriaco Jochen Rindt, poco più grande di lui e destinato a diventare l'unico campione del mondo della storia proclamato postumo dopo uno schianto fatale nel 1970 sul circuito di Monza. Aveva appena promesso alla fidanzata che avrebbe smesso con le corse. Però il destino non gli ha dato il tempo di rispettare la promessa. La Formula 1 è questo, un gioco cinico dominato dagli istanti. Nicky, superato l'ostacolo di suo padre, che è costretto ad arrendersi di fronte alla sua determinazione, esordisce finalmente in corsa nel 1968 su una Mini Cooper S, motore Porsche. L'anno dopo passa alla Porsche, prima 908, poi 911 e alla monoposto di Formula V. Già nel 1970, nel campionato di Formula 3, si è sparsa la voce di questo ragazzo dall'aspetto aristocratico che in testa ha solo la voglia di vincere. Non ha ancora la macchina giusta, perché la McNamara è troppo poco competitiva, ma la pazienza, si sa, è la dote dei forti. Era soltanto una questione di tempo. Io sentivo che quella era la mia strada e che qualcuno, prima o poi, si sarebbe accorto che io potevo vincere. L'ho sempre sognato fin da bambino e sono convinto che i sogni sono potenti. Se ci credi davvero, puoi farli avverare. Il fatalismo non fa per Lauda. È troppo concreto e pragmatico per stare immobile ad aspettare il suo destino. Deve andargli incontro. Visto che i soldi di famiglia sono intoccabili, perché è già stato difficile accettare che corresse, figuriamoci finanziarlo, Nicky chiede ed ottiene da una banca 35.000 sterline, grazie alle quali può partecipare all'Europeo di Formula 2 con una March. Il mezzo non è insuperabile e ottiene solo qualche misero piazzamento, ma è il primo passo per il suo esordio in Formula 1, nel Gran Premio di casa, in Austria, sempre con una March. Ma parte in ultima fila, non può fare molto, e un guaio allo sterzo lo costringe al ritiro. La March non vuole mollarlo, gli offre ancora un sedile per il 1972 e per l'intero campionato. Ritiri, insoddisfazioni, piccole disavventure. Non è ancora il suo momento. Ma va avanti a testa alta, mentre gli addetti ai lavori continuano a scommettere su di lui. Nel 1973 si accorda con la BRM, raccoglie i primi punti grazie a un quinto posto in Belgio, acquista fiducia. In Canada rimane al comando sotto la pioggia per 19 giri. Chi l'avrebbe detto che lo stesso uomo, solo 3 anni dopo, con la sua Ferrari al circuito di Fuji, avrebbe avuto paura dell'acqua? . 24 ottobre 1976, circuito del Monte Fuji, Giappone. È la prima volta che si corre in Asia nella pittoresca cornice del tracciato opposto ai piedi della più alta montagna nipponica. Gli italiani puntano la sveglia a notte fonda per guardare in diretta l'ultima e decisiva gara di una stagione eccitante. Gran Premio del Giappone 1976, per la prima volta il Mondiale Formula 1 arriva in Giappone, si corre sul tracciato del Monte Fuji. Una nuova regolamentazione che prevede auto più basse, l'altezza massima deve essere di 85 cm, doppio roll bar obbligatorio e zona deformabile davanti alla pedaliera della monoposto. Debutta la Ligier con la Fit, motore Matra, e la Tyrrell a 6 ruote. Le condizioni climatiche sono pessime, piove a dirotto, la visibilità è scarsa e l'aderenza non si può neanche sognare. I tecnici cercano in tutti i modi di migliorare il drenaggio, ma i piloti non si fidano a correre. Eccleston, che non vuole perderci soldi, li convince a posticipare di 2 ore la partenza, nella speranza che il meteo cominci a collaborare. Intanto si fanno varie ipotesi. Non considerare la gara valida per il mondiale, posticiparla al giorno dopo, oppure annullarla e rimandare l'esito del campionato a una gara nell'anno dopo. Alla fine si decide di far disputare la gara sulla metà dei giri inizialmente previsti. Parte James Hunt in testa, seguito da John Watson, Mario Andretti, Jody Scheckter, Vittorio Brambilla e Clay Regazzoni. Tutto lascia pensare che a vincere sarà ancora Niki Lauda, il campione del mondo uscente. Invece lui entra ai box e si ritira. Quindi infatti dopo pochissimi giri Niki rientra ai box e scende desolatamente dalla vettura, perché dice: non vedevo nulla, è inutile rischiare la vita, ci sono cose più importanti nella vita che il titolo di campione del mondo. Forghieri lo difese all'inizio dicendo che era stato un problema di impianto elettrico, ma poi Lauda disse: no, sono io che non avevo il coraggio di andare avanti. Primo è Mario Andretti. La Lotus è di nuovo sul primo gradino del podio dopo 2 anni e ben 31 Gran Premi. Hunt non realizza subito che per una questione di punteggio essere arrivato terzo significa diventare campione del mondo. Scende furioso dalla sua vettura e incomincia a inveire contro la sua scuderia, che non l'ha richiamato prima per cambiare gli pneumatici. Finché Teddy Mayer, il dirigente a capo della McLaren, alza 3 dita al cielo per indicargli la posizione raggiunta. E incominciano i festeggiamenti, mentre Lauda guarda quella vittoria da lontano. È strano il destino. Al Nürburgring Lauda ha rischiato di morire nel fuoco e adesso ha paura di morire per colpa dell'acqua. I tifosi sono tutti increduli, ma si dividono in 2 fazioni. Quelli che lo condannano perché pensano che i piloti debbano essere gladiatori impavidi e pronti a tutto, e quelli che lo comprendono, che intravedono per la prima volta un'umanità dietro quella facciata fredda e razionale a cui Lauda li ha abituati. Anche questa volta, forse, si è ritirato calcolando di poter vincere lo stesso a tavolino, per una questione numerica, ma non ha fatto i conti, letteralmente, con l'irruenza di Hunt. I piloti come Lauda, che tutti chiamano non a caso il ragioniere al volante, sono macchine da soldi estremamente redditizie, ma poco inclini allo spettacolo. Le scuderie li adorano, ma fanno fatica a entrare nel cuore della gente. Invece, intorno alla pista e sui divani delle case, i fan di questo sport vogliono sentire la passione. Lauda non è più lo stesso uomo freddo, razionale, stoico e sicuro di sé che ha dimostrato di essere in ogni occasione. Quando sfiori la morte, poi ti attacchi alla vita come non lo sei mai stato. The machine of a dream. Such a clean machine. With the pistons a pumping. And the hubcaps all green. Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. A Destini incrociati i motori sono caldi e due uomini hanno già incrociato i loro destini nella scuderia Ferrari. Il primo pilota è un accanito fumatore che viene da Como, divertente ed eccentrico, con quel cappello da cowboy sempre in testa. Si chiama Arturo Merzario ed è approdato a Maranello dopo la gavetta con i Rally e le Abarth, ma non ha dato grandi soddisfazioni al Drake. O meglio, le sue performance sono eccezionali con i prototipi, ma nel campionato di Formula 1 non riesce a salire sul podio. È per questo che Enzo Ferrari l'ha sostituito con l'austriaco dal sangue freddo che tutti chiamano il ragioniere al volante. È Niki Lauda, fuori classe con cui i costruttori sanno di poter contare, ma che fatica proprio per il suo atteggiamento distaccato, poco incline alla spettacolarità, ad entrare nel cuore dei tifosi. Mi hanno sempre rimproverato di metterci prima il cervello e poi il cuore, ma non mi importava. Io dal momento che per la prima volta sono salito su una rossa, sapevo che volevo vincere. Difficile pensare a due personaggi più diversi di Niki Lauda e Arturo Merzario. Ma il destino, al Gran Premio di Nürburgring, Germania, nel 1976, ha deciso di incrociare le loro vite per sempre. Il tracciato si snoda per quasi tutta la sua lunghezza dentro una fitta foresta di abeti e le velocità medie sfiorano i 200 km orari. La Ferrari all'improvviso è fuori controllo. Tocca il cordolo interno con la ruota posteriore sinistra, sbanda. Lauda controsterza immediatamente, ma non riesce a evitare il testacoda. La vettura si gira in senso contrario a quello di marcia, sfonda le reti di protezione, sbatte violentemente contro una roccia e rimbalza al centro della pista, prendendo immediatamente fuoco. L'austriaco di ghiaccio è avvolto dalle fiamme e tutti intorno trattengono il respiro. Il primo a passare è Guy Edwards. Si trova davanti la Ferrari ferma in mezzo alla pista, trasformata in un rogo e con il pilota esanime intrappolato nell'abitacolo. Non si sa come, ma riesce a evitarla. Invece, Brett Langer la centra in pieno, facendola girare ancora di più su se stessa. Dal serbatoio esce altra benzina che alimenta l'incendio. Divampa una fiammata improvvisa che investe Niki in pieno viso. Nel frattempo arrivano anche Harald Ertl e Arturo Merzario. Tutti mollano la corsa, cercano di aiutare il collega, per il quale purtroppo sembra non esserci speranza. Io non credo alla vita dopo la morte, perché ci sono andato molto vicino e non ho provato nulla. Nulla, tranne una paura folle. In ospedale pensavo, accidenti, non è possibile che ora tutto sia finito. A distanza di anni, l'incidente mi provoca ancora incubi. Nel sogno percorro la via di fuga, però non c'è nessun incendio, ma vengo decapitato. Le fiamme sono cattive, difficili da domare. I soccorsi stanno arrivando, ma il percorso è lunghissimo e ci impiegano un sacco. Arturo Merzario, coraggioso e dal cuore infinito, si getta nel fuoco e tira fuori dall'abitacolo quello stesso uomo che 3 anni prima gli aveva rubato il posto in Ferrari. Non si sono mai sopportati, ma adesso non conta. Non conta più neanche correre. Conta soltanto lottare per la vita. Quando arrivano i soccorritori, Niki Lauda è coricato sull'asfalto, intossicato dal fumo, con il cranio e buona parte del volto ustionati, ma riesce a muovere leggermente la mano per far vedere che è vivo. È una lotta contro il tempo. In questo la Formula 1 altro non è che una metafora della vita. In ospedale entra in coma e tutto sembra andare verso il tragico epilogo. Ma dopo che gli somministrano l'estrema unzione, il destino decide di dargli un'altra possibilità. Ma di certo non sarà più lo stesso. Completamente sfigurato, dovrà sottoporsi a un pesante intervento di plastica facciale e rimarrà per sempre senza un orecchio. È durissimo, se non impossibile, superare lo shock. Non dimenticherò mai la prima volta che ho visto il mio volto dopo che il fuoco mi aveva bruciato. Pensai, così non potrò più andare in giro per Vienna. La gente mi fisserà come allo zoo. Arturo Merzario, eroe inconsapevole, fa il tifo da lontano per l'austriaco, che non è mai stato suo amico. L'opinione pubblica lo glorifica, ma non abbastanza. Mentre Niki Lauda, dal suo letto di ospedale, è aggrappato alla sopravvivenza con le unghie e con i denti, e non lo ringrazia neppure. Lo farà una volta uscito, pensa il comasco, mentre fuma una sigaretta via l'altra, anche se per lui non è così importante. Gli ha salvato la vita perché in quel momento era la cosa giusta, perché quello era ciò che un uomo doveva fare. Passano neanche 40 giorni e Lauda, oltre ogni più rosea aspettativa, è di nuovo in pista, spavaldo e deciso a vincere. In realtà, dietro a quella maschera da superuomo, non è per niente tranquillo, sbanda, fa errori. È per questo, se di fronte alla pioggia scrosciante di Fuji, decide di ritirarsi, mostrando al mondo le sue paure. Decide di ringraziare Arturo Merzario con un orologio d'oro, forse un simbolo del tempo da proteggere, ma anche un gesto piuttosto volgare e vistoso, come suo solito fatto con il cervello, più che con il cuore. E invece Merzario, per il quale una risata è tutto, non se la prende. D'altra parte, non ha mai nascosto che per lui la passione prescinde dai risultati. L'eccentrico Merzario non molla, neanche adesso che ha quasi 70 anni, i suoi cappelli da cowboy e le corse. 2 anni fa, il giorno del suo compleanno, Lauda ringrazia in modo plateale, anche se un po' in ritardo, l'uomo che l'ha salvato, l'uomo del suo destino. Arturo ne è felice, ma non più felice di come è sempre stato. Il suo unico commento è che la vera fortuna è essere vivi. A volte i grandi eroi non sono quelli che vincono. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.